Europa 24. La chiave per lo sviluppo della Grecia è la stabilità politica e questa è la strada che intendiamo seguire fino in fondo. Restano ancora da fare alcuni passi per cancellare definitivamente l'incubo e l'angoscia che il popolo greco ha vissuto negli ultimi anni. Così, questa mattina il premier greco Antonis Samaras, prima di incontrare il presidente della Repubblica per informarlo sugli incontri avuti a Bruxelles, dove secondo Samaras il clima politico per la Grecia è buono. Quindi uno spiraglio di ottimismo anche dalla Grecia in apertura di questo nostro appuntamento con l'Europa. A Bruxelles, ha proseguito il premier ellenico, riconoscono i grandi sacrifici e gli sforzi fatti da tutto il popolo greco. Intanto l'ufficio stampa di Syriza, il partito di sinistra radicale che in base ai risultati elettorali è divenuto il primo partito in Grecia, commentando la dichiarazione del premier, ha affermato che la stabilità politica non significa la permanenza del governo attuale alla guida del paese. Staremo a vedere. Cambiamo argomento. Tantissimi soldi è quanto potrebbe pagare l'Italia per non avere rispettato le condizioni umane nelle carceri. E la Corte di Strasburgo, che più volte ha denunciato la situazione, ora vorrebbe passare ai fatti. Un problema politico che, se si risolverà mai, sarà grazie alla magistratura. La legge dice che bisogna garantire ad ogni persona rinchiusa in cella uno spazio minimo di 4 metri quadrati sufficientemente illuminato e pulito. Bisogna inoltre assicurare, tramite attività sociale all'interno del carcere, che il detenuto passi un buon numero di ore fuori dalla cella. Nelle 206 carceri italiane ci sono 66.271 detenuti. La capienza massima è 45.568 posti. Con una sentenza, l'8 gennaio 2013, la sentenza Torreggiani, la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia a pagare 100.000 euro di risarcimento a 7 detenuti che avevano fatto ricorso perché costretti a dormire in celle troppo piccole e nelle quali dovevano passare quasi 20 ore su 24. Moltiplicando la cifra del risarcimento per i circa 20.000 detenuti in eccesso, la somma si avvicina a 300 milioni di euro. Se lo Stato dovesse risarcire l'intera popolazione carceraria, si arriverebbe a 1 miliardo di euro. Ieri la decisione della Cassazione, che prevede la libertà per i piccoli spacciatori e la distinzione tra droghe pesanti e leggere, una scelta che fa uscire di prigione circa 4.000 detenuti, anche se il calcolo nei prossimi giorni potrebbe comprendere altri reati legati alle droghe leggere per un totale di 20.000 detenuti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima assemblea della delegazione del PD eletta al Parlamento europeo, alla presenza del segretario nazionale Matteo Renzi, i 31 parlamentari hanno deciso di riconfermare l'assetto uscente. David Sassoli è stato così riconfermato all'unanimità capo della delegazione del Partito Democratico a Bruxelles, confermati nel board anche Andrea Cozzolino e Silvia Costa. E infine parliamo di Beppe Grillo, che ha elogiato e difeso Nigel Farage in un'intervista al Daily Telegraph, in cui afferma che il leader euroscettico britannico a capo del UKIP non è razzista e, dice Grillo, ha senso dello humor e dell'ironia. Secondo il leader del Movimento 5 Stelle sono diversi i punti in comune tra i due schieramenti, a cominciare dal tema dell'immigrazione. E con questo è tutto per Europa 24, che naturalmente torna come di consueto stasera intorno alle 21.30 con l'anticipo di quello che è il tema del reportage, dell'euro reportage che andrà in onda nel fine settimana. Da parte mia un saluto e naturalmente l'augurio di un ottimo weekend. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.